Allora, il libro ce l'avete? Allora, leggiamo pagina, comunque c'è un paragrafo che si intitola. Prima di leggerlo vorrei chiedere cosa ne sapete, cioè cosa vi evoca il titolo. Il titolo è Le pattumiere dei paesi ricchi. Pattumiera cosa vuol dire? Gestire. Allora, però è intitolato Il pattumiere dei paesi ricchi. Prima di andare a leggere, vediamo un po' che secondo voi con cosa ha a che fare questo paragrafo. Di cosa si parlerà in questo paragrafo? Quali sono gli argomenti? Ricordatevi che non è che dovete semplicemente indovinare tutto quello che viene in mente liberamente. Sentiamo quello? Lo smaltimento della spazzatura. Lo smaltimento della spazzatura. Sentiamo chi dice. Se, siccome sono paesi ricchi, utilizzano molto più plastica o comunque cioè materiali che comunque possono inquinare e quindi il degrado della mia economia. Sì, tu dici i paesi ricchi. Producono più spazzatura dei paesi poveri e quindi diciamo inquinano più degli altri. Questo sentiamo era più o meno le volute. Il consumo elevato della spazzatura nei paesi più ricchi. Beh, la spazzatura non si consuma, si produce. Sì, vabbè, il consumo. Cioè delle cose che diventano spazzatura. Delle cose che diventano spazzatura, sì. Altri? C'è qualcos'altro che viene, che vi fa venire in mente questo titolo? Le pattumiere dei paesi ricchi. Questi sono i cestini della spazzatura dei paesi ricchi. Prego. Che magari i paesi ricchi hanno un modo di vivere diverso dai paesi più poveri e quindi magari fanno meno attenzione a applicare più. Fanno chi è che fa meno attenzione ai paesi ricchi? I paesi ricchi fanno meno attenzione nel momento in cui devono pensare a come gestire i propri rifiuti. Sì. Questo dici. Ok. Altri interventi? Certo, se parlando di paesi ricchi e paesi poveri dovremmo chiederci oggi, secondo voi, quali sono i paesi ricchi e quali paesi poveri? Che idea avete su questo? Quali sono i paesi ricchi e poveri? Sì, dite liberamente. Prego. Per esempio, quasi tutti i paesi dell'Europa sono per più o meno parlavo già, non si sente. Ma è quello che dirò. Sono io sordo un po'. Sì. Paesi europei. Quindi i paesi europei. Sì, i paesi europei li distingui in qualche modo oppure ti sembrano tutti ricchi? No, cioè che è un po' più ricco, un po' più povero. Per esempio, possiamo distinguere l'Europa occidentale dall'Europa orientale dell'est? Ci hanno storie uguali e storie diverse. Secondo te no. Tu cosa dici? Per me, certo, quando io dico per esempio paesi ricchi, e lo metti su tutto l'America, il Giappone, però il Giappone sono diciamo, più intelligenti, cioè nel senso che tengono più al loro paese, quindi capace, nonostante la loro ricchezza, stanno più attenzione, per esempio quegli americani o come diceva appunto i paesi diciamo occidentali, europei, così non ci fanno più attenzione. Sì. Dunque, intanto non avete nominato, vi faccio notare che non avete nominato paesi come l'Africa o il Sud America. O... guardate lì dietro la cartina, vi dà... è importante che ci sia ancora una cartina in classe con cui si convive. Ecco, e ci sono molti paesi che sono ancora oggi considerati poveri. Vabbè, allora io ora volevi dire qualcosa? No, non stai pensando a me. Ora comincio a leggere il paragrafo, ogni tanto mi fermo e vi chiedo come avete capito e cosa avete scoperto, ecco, leggendo il paragrafo. Come l'avete capito e cosa avete scoperto rispetto a quello che sapevate prima. Allora, per chi c'ha il libro è a pagina 38. Ricordatevi che gli argomenti che vi piacciono particolarmente li potete sviluppare, perché il libro vi introduce, ma certamente mica esaurisce questi argomenti, no? Potete mettere anche in due a fare una vostra ricerca. E poi la presentate alla classe. Allora, dice così. I paesi sviluppati, quindi i paesi che hanno, potremmo dire anche i paesi che hanno una loro industrializzazione. L'Europa che avete nominato sono, fa parte dei paesi di antica industrializzazione. Poi ci sono paesi di recente industrializzazione. Faccio un esempio, l'India, la Cina, sono paesi di recente industrializzazione. Allora, i paesi sviluppati hanno adottato negli ultimi decenni una serie di misure che permettono di ridurre l'inquinamento all'interno del proprio territorio. Intanto mi fermo qui. Quali sono secondo voi queste misure che sono state adottate dai paesi sviluppati? Prego. La raccolta differenziata. Sì. Quando si parla di raccolta differenziata bisogna aggiungere subito una cosa, perché altrimenti è inutile la raccolta differenziata. È la raccolta differenziata finalizzata al riciclo dei rifiuti. Se faccio la raccolta differenziata e poi la ributto tutta o nelle discariche o negli inceneritori, serve a ben poco. D'accordo? Lo dico perché a volte è successo proprio così. Altro, che tipo di rifiuti esistono secondo voi? La plastica, la... Sì, ma qual è l'origine? Perché possiamo dividere in due grandi categorie. Sono i rifiuti urbani, sì, nei paesi sviluppati. Quelli che si possono smaltire, quelli che si smaltiscono più difficilmente. Sì, su questo sarebbe interessante articolare. Però per ora distinguiamo tra i rifiuti urbani e quelli industriali. Va bene? In tutti, però in tutti gli ambiti della produzione si possono produrre rifiuti. Per esempio anche l'agricoltura può dare dei rifiuti, soprattutto l'agricoltura nelle forme in cui è praticata oggi può dare dei rifiuti. All'interno di una città ci possono essere anche aziende che producono rifiuti speciali. Pensate semplicemente agli ospedali. Gli ospedali producono un certo tipo di rifiuti che non si può assimilare al rifiuto urbano domestico. E non ci sono solo i rifiuti urbani domestici, ma ci sono anche rifiuti di origine industriale, rifiuti di altro tipo. Bisognerebbe andare a fare una piccola ricerca su questo. D'accordo? E qual è il modo? Una è quello che ha detto lei, e poi lo smaltimento però dei rifiuti speciali o quelli di origine industriale comporta un'attività di smaltimento specializzata, finalizzata, che in parte si fa nei paesi sviluppati, come vedremo spesso. si trova un diversivo di cui ora si parlerà nel paragrafo. Un'altra modalità di cui non si parla è quella di mettere in atto un'economia circolare. Cosa significa un'economia circolare? Qualcuno ha un'idea? Te. Non so, Sì. Cioè, circolare sarà un ciclo. Sì, in cui c'è un ciclo. Appunto, è a che fare con l'altra parola che abbiamo nominato prima, riciclo. Un riciclo. Quindi un riutilizzo. Cioè a dire un recupero, la rimessa in circolo, per esempio, di tanti materiali che normalmente finiscono magari sottoterra in discarica o addirittura nell'inceneritore. Quindi rimetterli in circolazione. È l'idea di imitare gli ecosistemi naturali. Gli ecosistemi naturali, i rifiuti non esistono, perché i rifiuti vengono sempre riutilizzati in altre nicchie ecologiche. I rifiuti di una parte sono le risorse da un'altra, diventano risorse per una certa nicchia ecologica fatta di esseri viventi o vegetali o animali. Va bene. E quindi tutto rientra in circolo. Infatti, se si guarda agli ecosistemi naturali, si vede che non producono, sono in equilibrio dinamico, si evolvono, ma non producono accumulo di rifiuti. Tutto viene riutilizzato. Allora, l'idea è un sistema economico che imiti i sistemi naturali. Un'altra domanda importante a proposito dell'agricoltura, in questa poi la svilupperemo, è: vi siete mai chiesti chi è che coltiva un bosco oppure una foresta? C'è qualcuno che la coltiva, un bosco, una foresta? No. Chi? Lo sta, cioè, dipende. No. Non penso che ci sia stato. No. Perché lo Stato non c'è sempre stato, mentre le foreste sì. Non sempre, ma diciamo da quando sono poi via via si sono evolute. Non c'era addirittura prima degli uomini, si sono evolute, chiaramente, perché la vita esiste sulla Terra da quanto tempo? Da 4 miliardi di anni almeno. Però la prima vita sulla Terra non era certo quella che vediamo ora. Le condizioni climatiche, geologiche della Terra erano completamente diverse. Ora, questo lo studierete a scienze, che è un argomento estremamente interessante. Allora, andiamo avanti. Dicevamo che i paesi sviluppati hanno trovato dei modi, no? Di trattare i rifiuti all'interno del proprio territorio. Ora attenzione, dice: allo stesso tempo però trasferiscono nei paesi in via di sviluppo molte produzioni inquinanti. E cosa ancora più grave, vi trasferiscono i rifiuti tossici prodotti dai loro alti consumi. Poiché nei paesi sviluppati vigono norme per la protezione della salute e dell'ambiente, lo smaltimento di questi rifiuti richiede procedimenti molto costosi. È quindi spesso più conveniente per le industrie inviarli in paesi dove tali norme sono meno rigide o vengono ignorate, soprattutto Nigeria, Costa d'Avorio, Camerun, Somalia e altri paesi africani. Tali trasferimenti avvengono attraverso accordi internazionali o clandestinamente. Le conseguenze sono disastrose. Accumulati in discariche prive di sistemi di sicurezza o scaricati in mare, i rifiuti tossici che contengono sostanze chimiche e radioattive contaminano il suolo e le acque, provocando intossicazioni e decessi tra la popolazione. Allora, ascoltiamo i vostri commenti. Matteo, hai sentito? Allora, lui ci ha dato un commento, altri... Se volete io rileggo, se volete rileggo la parte interessata, perché questa parte qui è molto densa. Rileggo molto rapidamente, che c'è un suo commento. Allora, dice, sempre parlando dei paesi sviluppati, che allo stesso tempo, oltre a trattare all'interno, spesso trasferiscono nei paesi in via di sviluppo o nei paesi poveri molte produzioni inquinanti e, cosa ancora più grave, vi trasferiscono i rifiuti tossici prodotti dai loro alti consumi. Poiché nei paesi sviluppati vigono norme per la protezione della salute e dell'ambiente, lo smaltimento di questi rifiuti richiede procedimenti molto costosi. È quindi spesso più conveniente per le industrie inviarli in paesi dove tali norme sono meno rigide o vengono ignorate. E qui fa un elenco di paesi africani. Quali norme? Ecco, sì, buona domanda. Ora ce lo chiediamo tutti. Tali trasferimenti avvengono attraverso accordi internazionali o clandestinamente. Le conseguenze sono disastrose. Accumulati in discariche prive di sistemi di sicurezza o scaricati in mare, i rifiuti tossici contengono sostanze chimiche e radioattive, contaminano il suolo e le acque, provocando intossicazioni e decessi tra la popolazione. Allora, c'è una domanda sua, mi dice quali norme? La domanda la rilanciamo a tutti, poi eventualmente ti dico. Allora, se ci sono due richieste, altri? Sentiamo. Per rispondere alla domanda, perché le norme, ci sono alcune norme tipo di sicurezza per impedire che la gente magari inquini nel posto, che non si può fare. E la gente in maniera generica o qualcosa di più? Paesi più ricchi hanno queste norme che impediscono, cioè, a chi? A chi? I cittadini e invece in genere... Aspetta, ai cittadini e basta? No, anche allora, cioè a tutti. A chi in particolare? Perché abbiamo detto prima, chi è che produce inquinanti? Ah, l'industria. Ecco, non bisogna dimenticare questo. Sì. Le aziende, d'accordo? Quindi ci sono, se un'azienda ha un processo produttivo che produce delle scorie inquinanti e lei mette, non lo so, nei fiumi, nella terra, nell'aria, liberamente, questo fa bene, questo è, diciamo, nell'interesse pubblico? Certo che no. Quindi noi abbiamo delle norme per cui non si possono inquinare i mari, i fiumi, la terra, così via. E chi sono i maggiori inquinatori? Sono le persone, i singoli cittadini? Spesso, spessissimo, sono le industrie, le aziende, ma di vario tipo, abbiamo detto anche quelle agricole. Perché quelle agricole possono inquinare? Perché fanno i rifiuti organici. Beh, il rifiuto organico, se è riciclabile, non è un inquinante, però il modo di produzione dell'agricoltura qual è? Cosa intensive. Cosa si utilizza? Sì, sì. Esatto. Cosa si utilizza in agricoltura? Secondo te cosa si utilizza? Certo, quelle, non so, il concime, quelli per non far venire le lumache. Sì, i pesticidi. Sono veleni di alta tossicità, d'accordo? Sì. Anche i concimi chimici inquinano. Di questo se ne parla nel libro, nel genere lo leggete. Quindi, e poi soprattutto gli inquinanti che vengono dall'industria. Cosa si dice in questa Come si dice, questa lettura che abbiamo fatto, allora cosa si può aggiungere? Tu volevi aggiungere qualcosa, poi diamo la parola a lei. Che volevo dire che la spazzatura dei paesi più ricchi la mandano nei paesi più poveri, perché costa di meno, è più comodo. Ecco, lo smaltimento dei rifiuti speciali, industriali, eccetera, costa proprio perché non si può semplicemente buttare nell'ambiente. E nei paesi che hanno delle norme ambientali evolute, costa smaltire i rifiuti come si deve. Quindi c'è questa scorciatoia di cui tu ora stai dicendo. Piuttosto costa meno vendere questi rifiuti, cioè pagare un paese che li accoglie sul proprio territorio, dove le normative sono molto meno rigide, secondo, si dice nel testo, accordi internazionali oppure clandestinamente. Quindi costa meno magari inviarli in paesi africani. Sentiamo cosa volevi dire. Nei paesi ricchi, cioè ci sono queste norme per appunto lo smaltimento dei rifiuti, solamente che costa troppo, e allora usano, cioè a favore comunque di tutti, mandano, spediscono questi rifiuti in paesi tipo africani, dove in cui le norme non sono rigide come appunto nei paesi ricchi, e appunto vengono poi messi in mare o nelle acque comunque oceaniche o marine, e la causa è comunque l'inquinamento delle acque del pianeta. Sì, quando diciamo costa troppo, c'è subito una domanda importante: costa troppo a chi? A quel che deve smaltire di più. Ecco, ma dal punto di vista della comunità invece, questa spesa è necessaria oppure no? Questo lavoro, più che dire spesa, questo lavoro è necessario oppure no? Dal punto di vista della comunità. Se noi, vivendo a Pisa, immaginate che tutte le aziende che operano nel territorio pisano non i rifiuti di tal quali, così come prodotti, li rilasciassero nell'ambiente, farebbe un bene alla comunità. No, perché loro cioè saremmo contenti che quell'azienda ha risparmiato e però ha immesso tutti i rifiuti, tutti gli inquinanti nell'ambiente in cui tutti viviamo. Sarebbe una spazzatura gigante. Ecco, sarebbe una ricchezza per noi che viviamo sul territorio? Certo che no. Tra l'altro, anche in termini strettamente monetari, perché cosa succede? La gente, se si ammala, dove va? All'ospedale. E cosa si incrementano? Quali altri tipi di spese? I costi sanitari. Medicine, interventi e così via. A carico di chi sono i costi sanitari? No. Ma lo Stato chi è? Noi. Lo Stato siamo noi. Paghiamo le tasse, quindi alzano le tasse. Ecco. Quindi vengono definite esternalità negative che vengono riversate sulla comunità. Capite? Questa è una cosa importante a cui pensare. Ma credo che a tutti voi sia sfuggita una cosa, una frase, nella lettura che abbiamo fatto. Ora ve la rileggo. Vediamo se chi la interpreta. La frase è questa, vi è sfuggita a tutti: trasferiscono nei paesi in via di sviluppo molte produzioni inquinanti. In via di sviluppo. Trasferiscono nei paesi in via di sviluppo molte produzioni inquinanti. Cos'è che trasferiscono nei paesi in via di sviluppo? Non solo la spazzatura, che vi ricordo non è che qui stiamo parlando di quella più Abbiamo trasferito anche rifiuti di origine urbana, ma più che altro qui si parla di rifiuti molto più difficilmente trattabili, che sono i rifiuti tossici industriali. Ma qui si sta dicendo un'altra cosa in questa frase. Trasferiscono nei paesi in via di sviluppo molte produzioni inquinanti. Cosa significa? Che mette la produzione dell'industria piuttosto che metterla a Pisa. Sì, a Pisa o nei paesi, diciamo, i paesi industriali sviluppati trasferiscono interi processi produttivi, quindi trasferiscono proprio le industrie, le aziende, quelle più inquinanti, dove le trasferiscono? Nei paesi dove c'è una normativa ambientale che è estremamente permissiva. Non solo, ma c'è un altro aspetto, quindi non solo la normativa ambientale, ma anche per esempio il costo del lavoro è molto molto più basso e addirittura, come si diceva mi pare qualche tempo fa, tu puoi far lavorare in questi paesi anche i bambini. E quante ore li fai lavorare? Mica 8 ore, 12 ore, 13 ore. Questo ha delle conseguenze incredibili, che se da una parte permettono a questi industriali che trasferiscono le proprie aziende altrove, attenzione, questa cosa non sarebbe permessa dalla Costituzione nostra, viene fatta, è un processo anticostituzionale, questo del trasferimento di attività produttive, perlomeno per l'Italia, si chiama anche delocalizzazione, tu cambi il luogo di produzione dell'azienda. È un processo che normalmente viene fatto da grandi aziende che si chiamano, non a caso, multinazionali. Perché? Perché hanno le loro sedi operative sparse per il mondo. Dov'è che, qui non si parla di questo, ma l'azienda mette la propria sede dove paga meno tasse. Tipo infatti questi made in Bangladesh, quando vengono. Esattamente, sì. Oppure il processo produttivo viene, cioè alcune cose le produci qui, altre le produci lì, altre le produci qua, poi le assembli in un altro posto e dopo la sede, quella fiscale, la metti in luoghi dove non si pagano le tasse. So se cominciate a intravedere qualcosa di non bello e non positivo. Tra l'altro, il fatto che voi sarete pagati pochissimo quando troverete lavoro, se lo troverete, lo dovete a questa competizione al ribasso che è in atto nel mondo oggi. Bisogna fare a gara ora in Italia a rendere competitivi i nostri prodotti all'estero. E come si fa a rendere competitivo un prodotto? Pagando meno. Pagando meno chi lavora. E prendendo un prodotto meno. Togliendogli molti diritti, pagando meno chi lavora e rendendolo facilmente licenziabile. Se il mercato tira, ti assumono. Appena il mercato non tira, devi essere licenziabile. Cioè ti assumo a tempo, a scadenza. All'inizio ti chiedo di lavorare gratis. Va bene? Quindi su questo ci sarebbe molto da approfondire, poi se troviamo modo ne parliamo. Allora, ora lo rileggo e poi passo avanti. Allo stesso tempo però trasferiscono nei paesi in via di sviluppo molte produzioni inquinanti. E cosa ancora più grave, li trasferiscono i rifiuti tossici prodotti dai loro alti consumi. Quindi fanno queste due cose, i paesi più ricchi. A chi le fanno? Ai paesi poveri. I paesi poveri sono talmente poveri che sono contenti di accogliere queste cose. Dire che sono contenti però insomma. È tipo bullismo. Sono costretti, bravo, è una sorta di bullismo economico fatto su scala globale, non a caso si chiama la globalizzazione dell'economia, e tentano di farcela piacere. È una cosa molto triste. È una cosa molto triste. Beh, qui si tratta di fare tutti qualcosa. Poiché nei paesi sviluppati vigono norme per la protezione della salute e dell'ambiente, lo smaltimento di questi rifiuti richiede procedimenti molto costosi e quindi spesso più conveniente per le industrie inviarli in paesi dove tali norme sono meno rigide o vengono ignorate. Soprattutto Nigeria, Costa d'Avorio, Camerun, Somalia e altri paesi africani. Perché questo processo continui, quei paesi devono stare sempre in quelle condizioni, non devono potersi evolvere. Perché un paese evoluto accoglie i rifiuti industriali di un altro paese liberamente, se non è benissimo pagato. Capite? Quindi bisogna mantenere i paesi poveri, bisogna mantenerli poveri. E perché bisogna mantenerli poveri? Per poterli sfruttare. In che modo li si sfrutta? Pagando pochissimo la manodopera, rubandogli le materie prime, facendoli diventare sede di ricevimento dei rifiuti industriali nostri, trasferendo lì processi produttivi altamente inquinanti, ed è importante per questo tipo di economia, che è un'economia estrattiva, è un'economia che non fa il bene comune, e tra l'altro pagando anche meno tasse possibili. I proventi di queste attività produttive fatte in questo modo, sapete dove finiscono? Nei cosiddetti paradisi fiscali. Che cos'è un paradiso fiscale? Lascio a voi di esplorarlo. Utilizzate internet e tutto, va bene? Che cos'è un paradiso fiscale? Non si controlla, giusto, dove non si controllano i soldi, dove non ci sono controlli fiscali. Sì, tu puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma sì, paghi le tasse, le tasse che dovrebbero finire alla comunità. Ricordati che lo Stato, secondo la Costituzione, Repubblica, cosa significa? Lo Stato è fatto da tutti noi, che siamo, abbiamo una struttura, un'organizzazione. È un po' come, perché noi purtroppo abbiamo questa concezione un po' sbagliata, ma per capire cos'è lo Stato bisogna leggere la Costituzione. Anche perché stanno in alto. Sì, perché attenzione, ci sono paesi che sono colonie, perché lì c'è una popolazione, c'è un territorio, ma queste persone non sono veri e propri cittadini, perché non possono decidere sulla loro terra le loro leggi. Sono colonie. C'è qualcuno dall'esterno, oppure si chiamano anche protettorati, ci sono varie leggi. Ma non sono veri e propri, non hanno un'organizzazione per cui le persone siano a pieno titolo cittadini, cioè non sono paesi in cui le persone sono titolari di un diritto, quello di decidere il proprio destino. Nella nostra Costituzione, all'articolo 1, c'è scritto che la sovranità, cioè chi comanda, la sovranità appartiene al popolo. Quindi chi è che comanda? Chi è che è il sovrano? Chi è che decide? Il popolo. E come? Attraverso le istituzioni democratiche. D'accordo? Questo è quello. Quindi è una cosa che viene prima, è una condizione che viene prima ancora della democrazia. Se la democrazia è possibile, se la sovranità appartiene al popolo. Capite? Altrimenti la democrazia non è possibile. È chiaro questo? Chiaramente si fa di tutto per togliere la sovranità al popolo, per gli interessi di pochi. Va bene? È importante che leggiate la Costituzione e sappiate che da molti anni, che prima si studiava a scuola, ora in maniera residuale. Maniera? Residuale. Ah, okay. Pochissimo, quasi niente. Ultimamente, è stato detto l'anno scorso, fate dei corsi sulla Costituzione a scuola ed è successo per la prima volta che all'esame di Stato noi abbiamo fatto delle domande ai candidati, l'esame di Stato quinto anno, sulla Costituzione. Ha tenuto il corso qui nella nostra scuola, nell'aula magna, ma così in maniera emergenziale, perché a un certo punto è venuto fuori questa cosa, non si studia la Costituzione a scuola. Allora ha tenuto un corso il professor Napolitano nella nostra scuola, credo lui, non so se anche altri, ma mi pare lui e basta, agli studenti di quinta dell'anno scorso e poi i vari insegnanti nelle classi. Ma all'improvviso, così come ora, all'improvviso il ministro, ministro dell'istruzione, una volta si chiamava istruzione pubblica, il ministro dell'istruzione pubblica, ora si chiama il ministro dell'istruzione, la parola pubblica è stata tolta, e anche questo vi dovrebbe far riflettere. Il ministro dell'istruzione, Fioramonti, si chiama, quello che c'è attualmente, ha detto bisogna che a scuola ci si occupi della questione ambientale. D'accordo? È anche il motivo per cui siamo qui quest'ora, qualche ora la passiamo in questo modo. Va bene? Ok, vado avanti. Quindi dicevamo, le conseguenze sono disastrose, accumulate in discariche prive di sistemi di sicurezza, scaricati in mare, rifiuti tossici che contengono sostanze chimiche e radioattive. Lo sapete che i rifiuti ospedalieri sono spesso radioattivi? Sì. I rifiuti ospedalieri. Perché? Si usa la radioattività in ambiente sanitario? Quando fai le nostre, sì, se ne fa, potreste fare una ricerca su questo, sarebbe una ricerca di fisica assai interessante. Perché ci sono rifiuti ospedalieri radioattivi? Ok, allora non ne parliamo ora. Quindi contaminano il suolo e le acque provocando intossicazioni e decessi tra la popolazione. Allo stesso tempo, ecco ora la parte nuova. Allo stesso tempo, una quantità crescente di apparecchi elettronici usati, attenzione, allo stesso tempo, una quantità crescente di apparecchi elettronici usati, cellulari, computer e altri elettrodomestici, viene inviata dai paesi sviluppati, soprattutto in Cina, India, Ghana, Nigeria e Sudafrica, dove vengono smantellati. Poiché tale operazione avviene in genere senza adeguate misure di sicurezza, i materiali tossici di questi apparecchi, cadmio, piombo, mercurio e altri, compromettono la salute dei lavoratori e contaminano l'ambiente. Per avere un'idea delle dimensioni di questo traffico, basti pensare che solo dall'Europa vengono esportati ogni anno, legalmente o illegalmente, circa 20 milioni di container contenenti vecchi apparecchi elettronici, rottami metallici e materie plastiche. Bene, mi fermo qui un attimo. Sarebbe interessante, via via, man mano che leggiamo, anche cercare delle immagini, dei documentari che visualizzano tutto questo. Quindi la cellulari smancano e le radiazioni vanno. Sì, allora, non solo i cellulari, ma pensa ai vecchi computer, anche ai vecchi computer, cioè vengono in alcuni paesi, soprattutto in Africa ci sono delle zone terribili dove questo lavoro, c'è il trasporto di questo genere di rifiuti e poi c'è lì un'economia locale fatta di gente che senza nessuna precauzione cerca di prendere i materiali, per esempio, non so, recuperare il coltan. È una operazione che magari, cioè a loro gli danno 3 lire, a loro gli bastano, però quel materiale lì ci sarà qualcuno che ci guadagna. Chi materialmente lo recupera senza alcuna norma e prendendosi tutto l'inquinamento, abbassando la vita media di queste persone che vi lavorano, soprattutto ragazzini, e a discapito dell'ambiente locale, ci sono delle immagini terrificanti. Perché attenzione, quando noi vediamo i paesi come l'Africa, come il Sud America, come, cioè, quando noi li vediamo spesso con gli occhi delle agenzie di viaggi. Va bene? Tutti belli. Ecco. Questa è una cosa che dovrebbe far riflettere, ma dovrebbe dare materia di riflessione agli artisti. Gli artisti, se non hanno niente da dire, diventano, il loro è un puro esercizio di stile. Possono fare cose carine, interessanti, ma se il loro linguaggio non veicola, per esempio, la denuncia, se non è in grado il loro linguaggio di dire qualcosa di importante, di mostrare qualcosa che le persone non vedono, a cosa serve un artista? Spesso sì. L'artista è quello che vuole. Un artista non è solo uno che critica tramite l'arte, è uno che dimostra le sue emozioni, quello che pensa tramite disegni, e quindi trasmette solo le sue emozioni. Quindi se uno critica è perché non approva quella cosa, ma ormai se non la critica è perché ormai non... Certo, ma sono d'accordo con te, però l'artista se non vede quello che ha intorno, se guarda e non vede, può mostrare qualcosa? E perché un artista non prova emozioni particolari rispetto a queste cose? Se vuole trasmettere, le può trasmettere. Ecco, allora, ma qui appunto stiamo dicendo qual è, ce lo dobbiamo chiedere, perché è una cosa complessa, no? Ce lo dobbiamo chiedere, e anche voi singolarmente lo dovete chiedere, se siete in un liceo artistico. Questa deve essere una domanda che vi deve accompagnare sempre. Qual è il ruolo dell'arte nel nostro tempo? Se uno studia la storia dell'arte, si accorge che il ruolo dell'arte e dell'artista cambia nel corso del tempo. E poi c'ha delle invarianze. Comunque ce lo chiederemo, continuiamo. Vai, vai.